Oh, original Black Soul Terror Rebel. Ubalo Coman, ciao. Oh, oh, oh. Vivo la mia vita con i pugni stretti forti, affronto ogni sfida senza problemi da pormi, seppure i miei pensieri a volte arrivano contorti, la linea della vita seguo senza presupposti. Vivo la mia vita con i pugni stretti forti, affronto ogni sfida senza problemi da pormi, seppure i miei pensieri a volte arrivano contorti, la linea della vita seguo senza presupposti. Non mi faccio problemi mai a dire ciò che penso, se mi stai sulle palle una parola già ti ho spento, anche se la mia vita brucia veloce come incenso, io me la vivo meglio e faccio sempre ciò che sento. Non sento le cazzate dei politici là fuori, per quanto posso per me restano solo rumori, che siano voci sole o che cantino dei cori. Per loro questa vita è sempre solo rose e fiori. Il massimo problema che possano avere questi signori è dove parcheggiare in centro ai loro macchinoni. La gente come noi invece vive alla giornata, la caccia, la donna e la musica sono l'unica portata. Vivo la mia vita con i puri stretti forti, affronto ogni sfida senza problemi da pormi, seppure i miei pensieri a volte arrivano contorti, la linea della vita seguo senza presupposti. Vivo la mia vita con i puri stretti forti, affronto ogni sfida senza problemi da pormi, seppure i miei pensieri a volte arrivano contorti, la linea della vita seguo senza presupposti. Senti Musuraka in Akayama na style, sempre per confermare che non morde il cancabaia. Per chi ne vuole ancora che doppio forte mo faia, e Babilonia brucia alte le fiamme in tutta Italia. Attaccata a Zion come serve una spilla da baglia, la giro sempre veloce come una lama che sempre ti taglia, le rime arrivano a raffica con proiettili di una mitraglia, lo stile di questa Puglia con il suo sole più caldo ti abbaglia. Vivo la mia vita con i pugni stretti forti, affronto ogni sfida senza problemi da pormi, seppure i miei pensieri a volte arrivano contorti, la linea della vita seguo senza presupposti. Vivo la mia vita con i pugni stretti forti, affronto ogni sfida senza problemi da pormi, seppure i miei pensieri a volte arrivano contorti, la linea della vita seguo senza presupposti. A volte sono solo ad affrontare tutti i miei demoni, mi spingono, tagliano, parlano senza fermare, vedersi colpevoli. Solo tu sempre comunque poi sono fiero dei miei risultati, la gente arriva sul dunque, vede i miei versi un po' complicati. Per quanto la folla si adegui, io sono sempre un po' fuori dal bordo, mi sono sempre distinto, sempre mi restano, ora me ne accorgo. A volte un po' sono scomodo, loro di cattivo occhio guardano, ma resto sempre coerente, per questo che dopo mi credono. Sempre solo una filosofia, vive e lascia vivere, questa è l'unica via, lascia perdere tutti i problemi, vivi come viene, non ti fare schemi. Sempre solo una filosofia, vive e lascia vivere, questa è l'unica via, lascia perdere tutti i problemi, vivi come viene, non ti fare schemi. Vivo la mia vita con i pugni stretti forti, affronto le sfide senza problemi da pormi, seppure i miei pensieri a volte arrivano contorti, la linea della vita seguo senza presupposti. Vivo la mia vita con i pugni stretti forti, affronto le sfide senza problemi da pormi, seppure i miei pensieri a volte arrivano contorti, la linea della vita seguo senza presupposti.